Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Stiamo visitando la città di Trento da un qualche giorno, perché questa città davvero offre tanto. Per esempio, è la prima città rinascimentale che si percepisce da chi viene dal nord, da chi naturalmente veniva dal nord, soprattutto dal 500 in avanti. Perché c'è questa impronta rinascimentale in una città circondata dalle Alpi e di cultura naturalmente nordica? Ma perché a un certo punto sulla cattedra vescovile, quindi sulla cattedra principesca della città di Trento, che vi ricordo era una città-stato governata dal vescovo, siede Bernardo Clesio, che era un principe vescovo italiano, il quale a un certo punto decide, diventando cardinale, che deve rifare completamente la dimora del principe. Quindi costruisce accanto al castello medievale detto del Buon Consiglio un magno palazzo, cioè un palazzo nuovo in stile rinascimentale, perfetto, sembra di essere a Roma, e fa chiamare naturalmente artisti che vengono velocemente ad affrescarlo. Li fa venire tutti dalla pianura. Da Brescia viene Girolamo Romani, detto il Romanino, da Ferrara i due fratelli Dosso e Battista Dossi, e poi dal Veneto Fogolino ed altri pittori. Tutti insieme li fa lavorare sala per sala per decolare il piano della famea, cioè della famiglia della sua corte, e il piano dove lui abitava. Gli affreschi che sono rimasti in questo castello sono mozzafiato, soprattutto quelli sotto la loggia che Romanino ha lasciato, immaginando il carro di Fetonte, cioè questo figlio di Giove che vuole prendere in mano il carro del sole, non lo sa guidare e precipita. E questa è un'allegoria del potere. Guardate che se non sapete guidare il potere andate malissimo. E in questo stupefacente loggiato avvenivano le feste che il vescovo principe Bernardo Clesio dava, e non a caso qua e là tra le lunette vediamo dei meravigliosi concerti di piferi e di violini che servono a ricordarci che sotto quella loggia non c'era solo la gioia degli occhi, ma anche la gioia per le orecchie.